si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, cari ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento con l'altra cronaca su Radio 24, le piccole grandi storie virtuose che insomma ci dicono che ce la possiamo fare, si può fare. E noi aspettiamo anche durante la settimana le vostre visite sulla nostra pagina Facebook, fate mi piace, siamo in tanti, possiamo diventare ancora di più. E allora cominciamo subito con qualche notizia della settimana. E dunque si tratta di una notizia a due lati, cioè un lato negativo e un lato positivo. Lato negativo: oltre 2 milioni di abitazioni in Italia risultano vuote, 6 milioni di italiani vivono in zone ad alto rischio idrogeologico, 3 milioni in aree a rischio sismico. E fin qua la brutta notizia, e la conoscevamo già. La buona notizia è che CGIL e Legambiente hanno stilato un rapporto presentato qualche giorno fa, secondo cui la riqualificazione energetica, la messa in sicurezza di tutti questi edifici e di tutti questi terreni a rischio, è passato da poco l'anniversario di un anno dall'alluvione in Liguria alle Cinque Terre, quindi sappiamo bene di cosa stiamo parlando, possono creare 600.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi 10 anni, che possono arrivare addirittura a 1 milione di posti di lavoro, considerando anche l'indotto della filiera. È per questo che CGIL e Legambiente propongono un grande piano nazionale con una regia possibilmente del governo per dare ancora di più incentivi fiscali a interventi di questo tipo, con una regia magari nazionale, ed è una bella iniziativa. Aderite a questa proposta che viene dalla CGIL e da Lega Ambiente. 600.000 posti di lavoro in 10 anni, solo portando la riqualificazione del patrimonio edilizio e del territorio italiano. Un'altra notizia arriva sempre riguardo alla sostenibilità, in questo caso dal congestionato asse autostradale Milano-Brescia, che potrebbe presto diventare il primo esempio di italiano, almeno, di un'autostrada tutta elettrica. Si tratta di una sperimentazione che dovrebbe portare all'adozione di un centinaio di vetture elettriche in car sharing, 18 aree di parcheggio dedicate lungo la Milano-Brescia, dislocate ai caselli, nei centri abitati in prossimità della metropolitana di Milano, con infrastrutture per la ricarica elettrica con pensiline fotovoltaiche. Dunque un progetto per un'autostrada tutta elettrica, e speriamo che si realizzi. Queste alcune delle notizie, e noi aspettiamo le vostre sulla pagina Facebook, ma anche alla mail, si può fare, @radio24.it, e poi alla nostra segreteria telefonica, le vostre ricette per salvare l'Italia in un minuto. Questa settimana ha prevalso però il pessimismo, lo scoraggiamento, e più che delle vere e proprie ricette per come si potrebbe fare a migliorare il paese, sono arrivate dei vostri auspici: vorrei ma non posso. Sentiamo. Sarebbe ora di prendere coscienza e capire che non si possono continuare a dare vitalizi da 20, 30, 40, 90 mila euro al mese. È ora di sospenderli. Bene, Michele. Sono Marco, telefono da Firenze. Io credo che la situazione economica ormai sia arrivata a un grado di deterioramento talmente forte che è impossibile andare avanti con la tassazione, perché questo governo continuerà con la tassazione, continuerà probabilmente anche il prossimo. Se non si tira una riga, se non si smette questo discorso di questi sacrifici in nome di un'Europa che non esiste, io credo che le famiglie italiane andranno a morire. Quindi a mio avviso occorre veramente azzerare il debito a livello europeo, ricominciare con nuovi parametri, con nuovi criteri, ma con questo sistema qui non si va da nessuna parte. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Ieri la Fornero ha detto: i giovani non devono essere chiusi, schizzinosi, devono accettare la prima offerta di lavoro e poi vedere da dentro. cosa vuol dire? Cioè, fatemi capire, dunque, io vado a lavorare in un call center per 600 euro al mese e poi da dentro... Ma che cazzo vedi da dentro? Cioè, cosa vedi da dentro? Ah, sì, che stupido, vedi che quando sei fuori non puoi farti un mutuo, perché le banche con 600 euro al mese non te lo danno il mutuo. Sarà mica che sono più schizzinose le banche? Buongiorno, sono un precario, me lo fa un mutuo? Mi dispiace, oggi siamo chiusi. Crozza a Ballarò, il tema introdotto dal ministro Fornero con le sue parole. È vero, molti giovani sono forse chiusi, schizzinosi. Per forza, per anni abbiamo detto di non sudare, di non preoccuparsi, che tanto tutto andrà bene. Rifiutano lavori che non corrispondono alle loro ambizioni. Per forza, abbiamo detto di studiare materie umanistiche, scienza della comunicazione a go-go, e nella speranza di trovare un impiego comodo, comodo. Ma la buona notizia è che ci sono invece tanti giovani e meno giovani che si rimboccano le maniche e invece del posto fisso, sicuro e zero rischi, insomma, si buttano in una strada più difficile, però magari più bella, un'impresa, un mestiere duro ma gratificante, per esempio nel mondo della cultura. Se ne è discusso a Padova fino al 26 ottobre, cioè fino a ieri l'altro. 70 giovani professionisti del mondo della cultura convocati per una settimana di formazione e promossa dal Comune di Padova, dall'ANCI e dal Consiglio, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono emerse diverse belle storie di giovani che si danno da fare nel mondo della cultura. Una delle belle storie è quella di Massimo Betti Merlin. Buongiorno. Ciao. Fondatore e gestore del Teatro della Caduta di Torino. In due parole, perché è stato selezionato il tuo progetto tra tanti che si sono presentati? Poi magari parliamo anche di questa settimana di formazione. Guarda, ho costruito un teatro nel 2003 a Torino che si chiama il Teatro della Caduta, e dove i giovani si possono esibire, diciamo, in una condizione a basso costo e incontrare un pubblico sempre numeroso. Il motivo è che l'ingresso agli spettacoli è gratuito. E qua a Padova adesso ci sono anche altri giovani che come me hanno intrapreso la strada, diciamo, da stardi, no? Senza rinunciare ai propri sogni, quindi con un po' di cocciutaggine hanno insistito per seguire le loro cose, che credo che il motivo per cui sono qui sia questo. Ecco Massimo, dove hai trovato tu la forza, la convinzione per realizzare questo progetto che è iniziato comprando un magazzino in centro a Torino, non ci credeva nessuno, un mutuo per fare un teatro dove il prezzo del biglietto è basso, addirittura non c'è, e però creare un'attività commerciale che funziona? Guarda, spesso le cose migliori nascono proprio nei momenti di crisi, no? Per questo anche si chiama Teatro della Caduta, perché auspica un cambiamento, no? Quando cade qualcosa normalmente succede qualcosa di nuovo. A me è successo proprio questo, che finita l'università non avevo assolutamente nessuna possibilità con una laurea umanistica di lavorare in nessuna istituzione come moltissimi giovani, e per cui mi sono inventato il mio progetto seguendo appunto le mie passioni, le mie idee, anche nell'idea che si possa davvero innovare, no? Un ambito anche come quello del teatro, che è in crisi perché gli manca il pubblico, è in crisi perché è un po' fermo su delle logiche vecchie di gestione anche organizzativa. E per dare la sensazione che tutto questo funziona, diciamo, quante persone, tra attori, tecnici, registi, le stesse persone, poi mi dicevi prima di fare l'intervista che poi ritroviamo al bar a fare il caffè agli spettatori, perché questo è anche il senso di un'attività come la vostra, quante persone girano intorno al Teatro della Caduta a Torino? Guarda, posso dire centinaia di persone, nel senso che in questi anni abbiamo avuto oltre 600 artisti sul palco, e per cui sono tantissimi gli artisti che entrano e escono da questo progetto. Non c'è una compagnia fissa di riferimento, ma ci sono collaborazioni, incontri, confronti, quindi uno spazio aperto vuol dire questo, uno spazio in continua mutazione dove le idee sono quelle di tanti. Il mondo non aspetta più e un giorno non ritorna mai. vecchia canzone di Fiorello per parlare di un altro caso di cultura e di arte, in questo caso cultura. Con la cultura non solo si mangia, ma ci si cura anche. Parliamo dell'arte terapia, l'arte al servizio di persone con disagio mentale o diversamente abili o con disagi sociali. Nella persona di Giuliana Bocconcello, che è ceramista, scultrice, pittrice, da molti anni fa proprio questo, arte terapia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, parleremo subito di questa sua passione che va avanti da oltre 20 anni, però sappiamo che a Latina tra poco meno di un mese ci sarà anche la Biennale dell'Arte della sua città, e dove saranno presenti anche opere che hanno a che fare con quello di cui stiamo parlando. Cosa troveranno i visitatori che vorranno venire alla Biennale d'Arte lì a Latina, Giuliana? Mi viene da dire che troveranno l'Isola delle Meraviglie. Questa è una biennale alla seconda edizione, indetta da Solidarte, l'associazione della quale ho l'onore di presiedere, e quindi all'interno di queste biennali ci sono naturalmente molti diversamente artisti che parteciperanno, che verranno da tutta Italia, quindi oltre confine, quindi saranno 80 esattamente quanti gli anni che compirà la nostra città quest'anno, quindi quest'anno è l'80esimo. E quindi insomma troveremo tante opere d'arte realizzate da queste persone. Una bella idea, l'arte al servizio delle persone che hanno bisogno di esprimersi o di curarsi in qualche modo, di uscire da situazioni difficili. Una bella idea, forse più a dirsi che a farsi. Invece lei come lo vive da oltre 20 anni questo percorso? Come funziona, Giuliana? Ma innanzitutto io vorrei incominciare a parlare di diversamente uguali, perché insomma ci sono persone che hanno peculiarità diverse nell'esprimersi, non solo dal punto di vista così personale, ma anche dal punto di vista dell'arte, visto che prendiamo dell'arte. Quindi io lavoro in questi settori, così tanto per identificarli, però lavoro con persone che hanno modalità diverse di esprimere la loro voglia di partecipare al processo produttivo di una vita collettiva, di vivere l'ambiente e darsi da fare, e volere anche realizzare anche un loro futuro. Quindi io, come appunto dicevate, sono anni che lavoro in questo, ho la passione, ho messo a disposizione la mia vena artistica, il mio modo di fare arte Lei aveva un lavoro, ha un passato, un lavoro in una grande azienda, poi a un certo punto la sua passione per l'arte l'ha portata altrove e ha trovato questo percorso. Sì, ovviamente io lavoro in un'azienda metalmeccanica e mi occupavo di tutt'altra cosa, ero un'impiegata, anche se poi negli anni un quadro aziendale, quindi con una posizione poteva fare la sua normale carriera come tanti, invece come a un certo punto qualcosa è andato in un'altra direzione. Certo, fortunatamente, senso che anche se la difficoltà è quella della sopravvivenza, proprio materiale, però questo poi rientra un po' nell'avventura di quando si fanno scelte, che si esce un po' fuori, no? Da un contesto di normalità, di timbrare un cartellino, Parliamo un po' appunto di arte, perché sappiamo che molti grandi artisti del passato erano sregolati, sono stati poi classificati anche successivamente come proprio pazzi, persone fuori sicuramente da alcune regole del vivere sociale. Però parliamo anche di un impegno, quello che lei fa al servizio dei centri di igiene e di salute mentale, una terapia che può produrre risultati più durevoli magari delle medicine, può costare anche poco, basta pagare gli artisti che vengono coinvolti. E poi sicuramente non ha effetti collaterali questo tipo di terapia. Come ce ne parli? Come funziona? Ma a parte che poi sul fatto degli artisti che sono tutti pazzi, forse la follia appartiene un po' a tutto l'essere umano, no? Quindi sono d'accordo fino a un certo punto. Che poi un artista faccia la scelta, è anche coraggiosa, perché ovviamente poi comporta anche dei sacrifici che forse diversi, no? Da chi poi fa altre scelte lavorative. In questo campo devo dire che funziona perché, non tanto perché parliamo di terapia, funziona perché poi c'è anche un coinvolgimento anche dell'individuo, quindi di sentirsi partecipi a una, presenti anche in un territorio, quindi ritrovare le proprie tracce, la propria identità, quindi questo fa sì che poi soprattutto anche un lavoro di gruppo, il fatto di progettare, chi ha dei disagi, io insomma mi permetto così, ma con molta umiltà di parlare, visto che ho un'esperienza quasi lunga, certo. E, non è che poi non ha delle esperienze di vita, quindi insomma ha un potenziale, e l'importante è diciamo avere quella pazienza che diciamo noi ormai stiamo un po' perdendo, quella della velocità da anni, quindi star lì a ascoltare, perché ognuno poi ha dei tempi per manifestare e per poter anche ascoltare, e questo devo dire, questi sono settori dove bisogna insomma avere quella preziosità dell'umiltà e dell'ascolto, questo è importante. E per esempio, visto che l'arte ha a che fare sicuramente anche con la capacità di manovrare degli attrezzi, con la manualità, come trova questa manualità in queste persone con le quali lei si approccia, tenendo conto che viviamo forse in un periodo, in un'epoca ormai da tempo, che la manualità l'ha un po' messa da parte? Ma a me poi viene da sorridere, perché ovviamente noi viviamo in una società che ci dà diciamo del manuale di movimenti, ci dà delle attrezzature diciamo minute, per usare un termine tecnico, con le quali poi ci sono delle regole, bisogna utilizzare quelle. Ovviamente in questi settori in alcune persone cambia, la situazione cambia. Quindi la manualità c'è, è importante, ma è importante anche per trovare una tipologia di manualità. Io, insomma, un esempio che posso fare, tra l'altro con grande orgoglio, è l'ultima mostra personale che io ho seguito portando un mio allievo a una personale, una sua mostra personale. Parliamo di Ettore Balduzzi, che è un giovanissimo non vedente, che ha anche diciamo la difficoltà del muoversi, del camminare, che lui è sulla sedia, la chiama la sua sedia a rotelle, però lui ha trovato, come Thor, il dio diciamo del martello, ha trovato un mezzo di comunicazione appunto con il martello per poter realizzare una mostra. E riesce a incontrare anche, questo è un altro aspetto interessante, i gusti della gente, dei visitatori, degli interessati al mondo dell'arte. Poi queste opere riescono ad avere anche un mercato, Giuliana? Dunque, questa prima mostra ha avuto un successo strepitoso. Tra l'altro è intervenuto anche il Museo Statale Omero per non vedenti di Ancona. Ettore ha venduto tutto. Ah, straordinario. Quindi, un messaggio davvero positivo, di speranza. Sì, positivo. Dobbiamo cogliere questi segnali e fare, diciamo, si dice, collaborare e fare gruppo e darci da fare, perché questa è una risorsa anche per tutti. Insomma, allora diamoci un appuntamento più avanti, perché la Biennale dell'Arte Contemporanea Latina inizierà il 24 novembre fino al 29 di dicembre. Troverete in esposizione queste opere di queste persone, troverete Giuliana Bocconcello, che avete sentito oggi a Si può fare. Giuliana, ci sentiamo più avanti, vedremo come andrà anche questa avventura, questa esperienza. Intanto grazie per questo racconto. Grazie a voi, arrivederci. E questa insomma era la storia di Arte Therapy che abbiamo raccontato, Giuliana Bocconcello, la Biennale d'Arte di Latina. La ritroveremo adesso, però il momento della notizia Si può fare nel mondo, la più bella della settimana. Sentiamo che cosa siamo andati a scovare. And the winner is... Il premio questa settimana va in Inghilterra e lo consegniamo direttamente in una fattoria del Norfolk, dove da qualche tempo lavora il primo spaventapasseri umano. Si chiama Jamie Fox ed è un giovane di 22 anni e si è appena laureato. La crisi ha colpito anche in Inghilterra e chi come Jamie è laureato in musica e letteratura trova pochi sbocchi professionali. Eppure lui non si è dato per vinto. Pur di lavorare, diceva, avrebbe fatto qualunque cosa. E non era un modo di dire come tanti. La sua giornata tipo si svolge in un campo di 4 ettari vestito con una giacca arancione fosforescente. Attende acquattato, armato di chitarra e campanaccio, pronto a suonare all'avvicinarsi dei minacciosi pennuti. Di sicuro, il tempo per pensare alla sua condizione non gli manca. Se pensiamo che James Ballard, il padre della fantascienza britannica, scelse per un periodo di fare il portiere per dedicarsi completamente alla scrittura, allora da Jamie Foxx possiamo aspettarci un grande romanzo o una grande sinfonia. L'aspetto positivo è la paga. 250 sterline la settimana, praticamente 1200 euro al mese. Quella di Jamie è una storia amara, certo, ma il nostro vuole essere un premio di consolazione. Dimostra che inventarsi un lavoro in tempo di crisi si può fare. Ben ritrovati cari ascoltatori, si può fare Cronache da un paese migliore, vi aspettiamo, veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook, si può fare trattino radio 24. Siamo partiti oggi dopo le parole del ministro Fornero sui ragazzi ciusi, così a nostro modo abbiamo voluto replicare raccontando storie concrete. Siamo partiti dalla storia del Teatro della Caduta a Torino, un'impresa impossibile, un magazzino vuoto comprato con un mutuo da un ragazzo che non aveva esperienze in questo campo solo qualche anno fa. Adesso c'è un teatro in Piano Centro a Torino che funziona, una bella impresa da parte di un giovane che si è rimboccato le maniche, dimostrando tra l'altro che con la cultura si mangia e come. Ne abbiamo altre di storie sempre di ragazzi che non sono per niente ciusi. Prima però il nostro avviso ai naviganti. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi, provocati da una zona di alta pressione fiscale, verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno, speriamo. Guardami, ho già spiccato il volo. Ed ora sono proprio sopra casa tua. Il falco va senza catene, fuggia gli sguardi. L'avviso ai naviganti di oggi è questo: si inverte la tendenza per la prima volta da almeno 10 anni a questa parte, aumentano i giovani agricoltori con un incremento del 4,2% nel numero di imprese individuali iscritte alla Camera di Commercio nel secondo trimestre del 2012, segno che in questo campo, nel campo dell'agricoltura, le cose vanno abbastanza bene, la crisi si farà pur sentire, ma forse meno che in altri settori, dunque è il momento di aprire un'impresa in questo campo. Però ci vuole fantasia, ed ecco che veniamo al tema musicale, perché adesso la storia che stiamo per raccontare è quella di Daniele Miconi, dell'agriturismo Al Falconiere, siamo a Sagnacco di Tarcento, in provincia di Udine, un agriturismo dove però c'è anche un allevamento di rapaci che servono, come se servono. Daniele, buongiorno. Buongiorno a voi. Servono a che cosa i rapaci che voi allevate in questo agriturismo, nel quale fate sia ospitalità eccetera eccetera, però insieme ad altri 3 soci, siete in 4, allevate il falco e forse qualche altra specie, adesso ci dirà, per un impiego commerciale che è l'allontanamento degli uccelli indesiderati. È una cosa un po' incredibile, ma è così? È così, perfettamente così. È un'attività che ormai ha più di 20 anni di storia, che però adesso ha trovato nuovi sviluppi anche in settori proprio legati all'agricoltura, e da diciamo 4 anni a questa parte che abbiamo cominciato con questa nuova attività proprio nuovissima, diciamo. Ecco, quali sono i settori dove trova applicazione questa vostra specialità, che lei mi diceva, voi avete un'azienda che va avanti da oltre 20 anni, però forse sarà che siamo in tempi di crisi e mestieri come il vostro tornano d'attualità, perché sembrano avere qualche segreto, qualche trucco anticrisi, cioè laddove altre attività si fermano, voi invece andate avanti, anzi forse è una cosa questa che può avere anche degli sviluppi. Aeroporti, termovalorizzatori, ma anche allevamenti ittici, laddove gli uccelli non devono arrivare, arrivate voi. Esattamente, praticamente dall'esperienza ventennale sviluppata presso l'aeroporto di Trieste, e siamo passati adesso a dare aiuto a tutte quelle aziende anche a livello agricolo, come ad esempio allevamenti ittici, stabilimenti cerealicoli, dove certe specie di volatili creano danno ai produttori, diciamo. Quindi noi, utilizzando i nostri rapaci, facciamo una lotta biologica nell'allontanare tutte queste specie che, nel caso degli allevamenti ittici, vanno a cibarsi dei pesci che vengono allevati, oppure stabilimenti di cereali dove spesso certe specie possono causare l'incombenza di malattie anche trasmissibili all'uomo. E quindi, diciamo, con i nostri falchi riusciamo a garantire con degli studi e poi con lo sviluppo sul campo di liberare, di bonificare queste aree per renderle salubri. Ecco, il vostro servizio naturale al 100% con quali altri metodi si mette in competizione? Cioè, voi risolvete questo problema laddove chi non faccia riferimento a un servizio come il vostro, come fa a risolvere il problema degli uccelli che possono intralciare il volo degli aerei o altre cose come ci raccontava lei? Diciamo che sia a livello aeroportuale che anche in certe altre realtà, sia agricole che industriali, vengono adoperati altri metodi, che come ad esempio gli ultrasuoni o dei cannoni che sparano dei botti a salve, che spesso sono anche fastidiosi per il vicinato e per gli operai che anche lavorano in queste realtà. Quindi diciamo che noi entriamo proprio con forza biologicamente, con naturalezza, verrebbe da dire. Esatto, con naturalezza a risolvere il problema dove spesso anche la tecnologia fallisce, perché la tecnologia ha bisogno di certi accorgimenti perché funzioni, che spesso sono anche costosi, perché gli uccelli si abituano anche a certi tipi di dissuasione. E quindi bisogna modificare l'intervento, sennò esatto. Loro si abituano e poi a fregare noi. Il rapace è sempre rapace, sempre predatore. E lui non lo fregano. Senta, Daniele, la società per cui lei lavora si chiama Bird Control, la società di cui lei è uno dei titolari, insomma, insieme ad altre 3 persone, abbiamo detto. Un lavoro duro, mi diceva. Si deve andare, per esempio, ogni mese in certi posti dove si trovano questi allevamenti, questi aeroporti, queste stazioni dove voi intervenite, a fare un mantenimento dell'intervento con il rapace, oppure ci sono anche lunghi orari dall'alba al tramonto da coprire, siete solo in 4 a fare questo lavoro, un lavoro faticoso. Lei ha sentito la polemica del ministro Fornero sui ragazzi ciusi, cioè un po' schizzinosi che rifiutano tanti lavori? Ma ne ho sentito parlare, non entro nell'argomento. Diciamo che spesso è difficile, la realtà è più difficile di quello che sembra, diciamo. Questo vale per il ministro Fornero, ma vale anche per voi, perché voi vi fate, se posso permettermi una scienza linguistica, un mazzo così, perché in 4 coprite 3 regioni e con orari molto lunghi e settimane che dove non ci sono pause, il lavoro è tanto, no? Lavoro è tanto e il fatto di avere soddisfazioni anche molto grandi lo facilita, diciamo, perché abbiamo avuto dei riscontri, continuiamo a avere riscontri ormai anche molto fuori regione, diciamo, ci spostiamo anche di 300-400 km per andare su appalti. Certo, e poi insomma è un lavoro che sicuramente ha una sua poesia, è inevitabile pensarlo, immaginarlo, mentre allevate i rapaci e poi anche nei vostri interventi. Qualora le cose dovessero andare ancora meglio e il vostro settore dovesse allargarvi, no? Magari anche dopo che si torna a parlare di questo, cioè i vostri falchi che allontanano gli uccelli indesiderati laddove non ci devono essere, doveste assumere qualcuno. Lei pensa che la caccia sarebbe lunga per un lavoro faticoso come il vostro? È fiducioso sui ragazzi? Ha torto la Fornero o ha ragione, tanto per tornare ai ciusi? Io penso che tutto nasce comunque da una base di passione per il lavoro che si fa, indipendentemente dal fatto che sia fatto con i rapaci o che sia fatto in una fabbrica. Ci deve essere passione per poter fare le cose bene. E ritengo che anche nel nostro settore noi, se continueremo così, avremo bisogno sicuramente di una mano, e sono convinto che che ci possa essere la possibilità di trovare bravi ragazzi volenterosi che si dedicherebbero volentieri e con impegno a portare avanti quello che noi ormai abbiamo avviato e che abbiamo visto funziona molto bene. Ed eccoci con l'appuntamento della domenica. Come è andata a finire? Insomma, ci sono tante belle iniziative che vengono annunciate, poi passa il tempo e noi appunto ci domandiamo ma come è andata a finire? Per esempio il negozio di Bolzano inaugurato a maggio, di cui avevamo parlato, un negozio particolare dove non si paga, si entra, si prende quello che ci serve e ce ne andiamo senza pagare. Una bella iniziativa. E allora chiediamo, a qualche mese di distanza, a Barbara Zerbini, volontaria che lavora al negozio Passamano a Bolzano, ci siete ancora? Siete ancora lì o avete dovuto chiudere? Suspense? Barbara, come va? Sì, ci siamo, le cose stanno andando alla grande. Benissimo. Sì, all'inizio diciamo la gente veniva, osservava, guardava e invece adesso abbiamo anche degli affezionati clienti. C'è un certo traffico, no? Perché la domanda è lecita, dopo l'effetto appunto annuncio, una bella iniziativa, adesso spiegheremo bene di cosa si tratta, uno si domanda ma come fa a sopravvivere un negozio dove non si paga, Barbara? Semplicemente il nostro negozio vive di offerte, la gente onesta apprezza quello che facciamo, ci ringrazia e ci lascia sempre. Beh, che vi ringraziano offerta. Questo me lo immagino, perché uno va, prende un giubbino, se ne va e dice grazie, però poi... No, ringraziano per l'idea, per l'iniziativa, sì. Perché comunque siamo gente comune, cittadini che si sono messi insieme per fare questa sfida. Quindi si basa su un vincolo di fiducia, di responsabilità. Sì. Che cosa si trova nel vostro negozio? Perché inizialmente io avevo capito capi d'abbigliamento usati, che è un po' un classico, diciamo, di questo tipo di mercatini. Invece poi nel vostro caso vi siete allargati ad altri tipi di merci. Sì, noi appunto i vestiti possiamo trovare sia da bambini che da adulti, poi possiamo trovare piccoli elettrodomestici, utensili della casa, libri di narrativa, CD, DVD, anche piccoli mobili, un po' di tutto. Insomma. Ecco, insomma, diciamo che possono essere anche quelle cose che uno ha a casa, che non utilizza, che si trova lì di fronte chissà quante volte, poi a un certo punto si domanda... magari le butto, no? Invece voi proprio vi basate sul principio del recupero, del riutilizzo, del non sprecare, e quindi ci sono persone che vengono da voi e vi riforniscono continuamente. Esatto, a noi ci piace dire che il Passamano è il negozio del dono, del recupero e del riutilizzo. E quindi anche se uno ha un piatto o due piatti di un servizio che non usa più, noi siamo ben contenti di accettarlo, l'importante è che siano in buone condizioni, questo lo continuiamo a ripetere, che siano puliti, che siano funzionanti le cose che ci portano, e noi le accettiamo ben volentieri. E tutto va via. È sicuramente una ricetta anticrisi, facile immaginarlo, perché soprattutto per chi viene a rifornirsi più che per chi vi fornisce. E chi sono le persone che vengono? C'è un po' di pudore ad andare in un negozio dove non si paga, che sembra quasi di ricevere una forma di elemosina, oppure la gente è tranquilla lì da voi? Ma diciamo che noi ci aspettavamo più una clientela basata un po' sui giovani, sì, o sulla gente, essendo il negozio situato in un quartiere periferico, noi pensavamo che venisse gente solo del quartiere, no? E invece col tempo abbiamo visto che la clientela è la più varia, e va dallo studente che deve arredare la stanza per andare all'università, quindi per frequentare l'università, quindi anche l'avvocato, cioè la clientela è mista, anche il cittadino extracomunitario che deve mettere su casa, di tutti. Ecco, ma Barbara, adesso faccio come Nanni Moretti, che nel famoso film a quella sua amica che diceva faccio cose, vedo gente, chiedeva sì, ma questo maglione dove l'hai preso, chi te l'ha dato, a voi l'affitto per esempio, che, cioè nel senso le spese che avete, come fate, ci state con queste offerte che ricevete, oppure insomma la sostenibilità economica di questa iniziativa? Beh, noi c'è da dire che siamo fortunati perché comunque il locale fa parte di uno, di proprietà di uno degli ideatori di questo progetto, quindi spese di affitto non ne abbiamo. Abbiamo tutte le spese di altro genere, quindi il condominio, il riscaldamento, spese condominiali, le immondizie, telefono e tutto quello che ne viene. E noi riusciamo a vivere tranquillamente con le offerte che ci lascia la gente. Certo, non siamo ricchi, sì. Non facciamo incassi stratosferici, però quello a noi basta. D'altra parte voi siete in tanti, siete cresciuti in queste settimane, siete sempre di più, quindi fate dei turni di volontariato, qualche ora ognuno di voi dedica la settimana a questo progetto, il che consente a questo negozio Passamano a Bolzano in via Rovigo, per chi non lo conoscesse e fosse interessato, di sopravvivere e anzi in prospettiva di crescere, come è avvenuto in questi tempi. Barbara, mi sembra aver capito che mi dicevi anche prima di fare questa intervista che vi stanno chiamando perché sono interessati anche a replicare un po' questa esperienza altrove. Sì, abbiamo ricevuto telefonate da Torino, da Modena e da altre città d'Italia. E di persone, di gruppi di persone che si vogliono unire e provare ad aprire anche loro un passamano nella loro città. Noi siamo ben contenti, siamo sempre stati disponibili e lo saremo sempre, e anche a invitare la gente a venire a vedere il nostro negozio. E ci sono anche semplici curiosi che partono da Modena o da Brescia e vengono a farci una gita a Bolzano, che è una bellissima città, ma con l'occasione vengono anche a fare un saluto a noi, anche per non acquistare niente, per non prendere niente o per non portarci niente, solo vedere come siamo fatti e come siamo organizzati. E va bene, grazie. Allora, Barbara Zerbini, grazie per essere stata con noi del negozio grazie Passamano di Bolzano. Se volete andate a fare un giro, il negozio dove non si paga e il negozio che, nonostante questa particolarità, non ha chiuso in queste settimane, in questi mesi, da quando è stato dato l'annuncio dell'apertura a maggio scorso. Come è andata a finire? Era questo l'appuntamento di oggi. Io ringrazio in redazione Franco Piantanide, Andrea Piana, che ha scritto con me il programma, in regia Fabio Cantadori. Ci risentiamo con Si può fare sabato prossimo a mezzogiorno. Buona giornata. Sì!